Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Bonacelli legge I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, traduzione di Marisa Zini. D'Artagnan continuava il cammino e raggiungeva Saint-Cloud, ma invece di seguire la via maestra, svoltò dietro il castello, infilò una specie di viottolo molto fuori mano e ben presto si trovò di fronte al padiglione indicato. Questo era situato in una località assolutamente deserta. Un alto muro, al cui angolo stava il padiglione, si ergeva da un lato del viottolo, mentre dall'altro una siepe impediva ai passanti l'accesso a un giardinetto, in fondo al quale c'era una misera capanna. Oltre la siepe, una densa nebbia avvolgeva nelle sue pieghe quell'immensità in cui dorme Parigi, vuota, spalancata immensità, dove brillavano pochi punti luminosi, funebri stelle di quell'inferno. Ma per D'Artagnan tutte le cose visibili rivestivano una forma lieta, tutte le idee avevano un sorriso, tutte le tenebre erano trasparenti. L'ora del convegno stava per scoccare. Difatti, dopo alcuni istanti, la torre di Saint-Cloud lasciò cadere lenta 10 rintocchi dalla sua vasta gola rimbombante. C'era qualcosa di lugubre in quella voce di bronzo che gemeva così nel cuor della notte. Ma ognuno di quei rintocchi che componevano l'ora attesa vibrava armoniosamente nell'animo del giovane. I suoi occhi fissavano il piccolo padiglione situato all'angolo del muro, con tutte le finestre delle imposte chiuse, tranne una, al primo piano. Attraverso quella finestra brillava una luce blanda che inargentava il fogliame tremulo di due o tre tigli che si innalzavano in gruppo fuori del parco. Evidentemente dietro quella finestrella così graziosamente illuminata, la bella Madame Bonacieux l'aspettava. Cullato da quel dolce pensiero, D'Artagnan aspettò una mezz'ora senza impazienza alcuna, gli occhi fissi su quella deliziosa piccola dimora di cui scorgeva una parte del soffitto dalle modanature dorate che attestavano l'eleganza del resto dell'appartamento. Batterono le 11. D'Artagnan, con un certo disappunto, pensò che forse la giovane donna si era addormentata nell'attesa. Si accostò al muro e cercò di arrampicarvisi, ma questo era intonacato di fresco e D'Artagnan si sciupò inutilmente le unghie. In quel momento avvistò gli alberi, il cui fogliame era sempre inargentato dalla luna, e poiché uno di questi sporgeva sulla strada, pensò che salendo tra i rami avrebbe potuto aguzzare lo sguardo fin dentro al padiglione. L'albero non presentava difficoltà, e poi D'Artagnan aveva appena 20 anni, perciò si ricordava il suo mestiere di scolaro. In un attimo si ritrovò tra i rami e attraverso i vetri trasparenti i suoi occhi spiarono l'interno del padiglione. Cosa strana che fece rabbrividire D'Artagnan dalla pianta dei piedi alla radice dei capelli, quella luce soave, quella tranquilla lampada rischiarava una scena di pauroso disordine. Un vetro della finestra era rotto, la porta della stanza era stata sfondata e penzolava dai cardini mezza fracassata. Una tavola, certo apparecchiata per una elegante cena, giaceva a terra. Le caraffe a pezzi, le frutta schiacciate e disseminate sul pavimento, tutto in quella stanza indicava una lotta violenta e disperata. Anzi, a D'Artagnan parve di riconoscere in quello strano guazzabuglio lembi di abiti e alcune macchie di sangue sulla tovaglia e sulle tende. Egli si affrettò a ridiscendere in strada con un terribile batticuore. Voleva vedere se trovava altre tracce di violenza. Il piccolo lume soave continuava a brillare nella calma della notte. Solo allora D'Artagnan si accorse, prima non l'aveva notato, poiché nulla lo spingeva a quell'indagine, che il terreno qui battuto, là pieno di buche, presentava tracce confuse di passi di uomini e di zoccoli di cavalli. Inoltre, le ruote di una carrozza che sembrava venire da Parigi avevano scavato nel terreno molle un solco profondo che non oltrepassava l'altezza del padiglione e tornava in direzione di Parigi. A D'Artagnan venne allora in mente la catapecchia muta e cieca, ma che certamente aveva veduto e che forse poteva parlare. L'accesso era sbarrato, ma il giovane saltò oltre la siepe e si accostò alla capanna. Ai primi colpi non ebbe risposta. Un silenzio di morte regnava nella capanna come nel padiglione. Comunque, siccome quello era l'ultimo tentativo, egli si ostinò. Ben presto gli parve di udire un lieve rumore all'interno, un rumore timoroso che sembrava esso stesso temere di essere udito. Allora D'Artagnan smise di picchiare e pregò con un accento in cui agitazione, promesse, terrore e tenerezza si mescolavano a tal punto che quella voce avrebbe rassicurato anche il più pauroso. Finalmente una vecchia imposta tarlata si aprì, o meglio si schiuse, per richiudersi non appena il chiarore di una misera lucerna che ardeva in un canto ebbe illuminato il cinturone, l'elsa della spada e l'impugnatura delle pistole di D'Artagnan. Tuttavia, per quanto rapido fosse stato il movimento, questi aveva avuto tempo di intravedere la testa di un vecchio. «In nome del cielo!» disse. «Ascoltatemi! Aspettavo qualcuno che non viene! Muoio d'inquietudine! Qui nei dintorni è forse capitata qualche disgrazia! Parlate!» La finestra si riaprì lentamente e la stessa faccia comparve di nuovo, soltanto ancora più pallida della prima volta. D'Artagnan raccontò sinceramente la propria vicenda, tacendo i nomi. Il vecchio lo ascoltò attentamente, facendo cenno col capo di sì. Poi, finito che ebbe, D'Artagnan scosse la testa con un'aria che non preannunziava niente di buono. «Allora avete veduto qualcosa?» ribatté D'Artagnan. «In tal caso ve ne scongiuro», continuò buttandogli una moneta. «Dite! Dite ciò che avete veduto, e parola di gentiluomo, non una sillaba di quel che direte uscirà dal mio cuore.» Il vecchio lesse tanta sincerità e tanto dolore sul viso di D'Artagnan che, facendogli cenno di ascoltare, disse a bassa voce: «Saranno state le 9. Avevo sentito dei rumori per strada. Quando, nell'avvicinarmi all'uscio, mi accorsi che qualcuno tentava di entrare. Siccome sono povero e non ho paura che mi si derubi, andai ad aprire e, a pochi passi di lì, scorsi 3 uomini. Nell'ombra c'era una carrozza con i cavalli attaccati e altri cavalli sciolti. Questi, senza dubbio, appartenevano ai 3 in abito da cavalieri. «Miei buoni signori!» esclamai. «Che volete da me?» «Ce l'avrai una scala?» mi disse quello che sembrava il capo della scorta. «Sì, signore, daccela e rientra in casa. Eccoti uno scudo per il disturbo. Ricordati però che se apri bocca su ciò che vedrai e udrai, perché per quante minacce ti si facciano, tu guarderai e ascolterai, ne sono certo, sei perduto.» Così dicendo mi buttò uno scudo che io raccattai e prese la scala. Effettivamente, dopo aver chiuso dietro di loro la porticina della siepe, feci finta di rientrare in casa, ma ne riuscii subito per la porta di dietro e, sgusciando nel buio, raggiunsi quel cespuglio di sambuchi tra i quali potevo vedere ogni cosa senza essere visto. I tre uomini avevano fatto avvicinare la carrozza senza il minimo rumore. Ne trassero fuori un ometto tozzo, piccolo, brizzolato, vestito miseramente di scuro, il quale salì con cautela sulla scala, guardò sornionamente nell'interno della stanza e mormorò a voce bassa: «È lei!» Immediatamente quello che mi aveva parlato si avvicinò alla porta del padiglione, l'aprì con una chiave che aveva con sé, richiuse e disparve. Al tempo stesso gli altri due salirono sulla scala. Il vecchietto restava allo sportello, il cocchiere teneva i cavalli della carrozza e un domestico quelli della sella. D'un tratto nel padiglione echeggiarono delle urla. Una donna corse alla finestra e l'aprì come per precipitarsi di sotto, ma subito si accorse dei due individui e si ributtò indietro. Quelli che stavano alla finestra si slanciarono dietro di lei nella stanza. Allora non vidi più niente, ma sentì il rumore dei mobili fracassati. La donna gridava e chiamava aiuto, ma quasi subito le sue grida vennero soffocate. I tre si avvicinarono alla finestra, tenendo fra le braccia la donna che due di essi trasportarono fino alla carrozza. L'ometto vi entrò dopo di lei. La carrozza si allontanò al galoppo, scortata dai tre cavalieri, e tutto ebbe fine. Invece di rincasare direttamente, D'Artagnan smontò alla porta di Monsieur de Tréville e salì svelto la scala. Questa volta era deciso a raccontargli tutto l'accaduto. Tréville ascoltò il racconto del giovane con una serietà che dimostrava che in quell'avventura egli vedeva ben altro che un intrigo amoroso. Poi, quando D'Artagnan ebbe terminato, disse: «Tutto ciò puzza di sua eminenza lontano un miglio». D'Artagnan chiese: «Ma che fare?» «Nulla. Proprio nulla per il momento, tranne che lasciare Parigi, come vi ho detto, il più presto possibile. Vedrò la regina, le racconterò i particolari della sparizione di quella poveretta, che la certo ignora. Al vostro ritorno, forse, avrò da riferirvi qualche buona notizia. Fidatevi di me». D'Artagnan sapeva che, per quanto guascone, Monsieur de Tréville non aveva l'abitudine di promettere e che, se per caso lo faceva, manteneva di più di quel che aveva promesso. Deciso di mettere immediatamente in pratica i consigli di Monsieur de Tréville, D'Artagnan si incamminò verso Rue des Fossoyeurs per sorvegliare i preparativi del suo bagaglio. Avvicinandosi a casa, riconobbe Bonacieux in abito da mattina, ritto sulla soglia. D'Artagnan notò una certa perfidia sorniona nei solchi delle rughe sul volto. Un furfante non ride allo stesso modo di un galantuomo. Un ipocrita non piange le stesse lacrime di un uomo sincero. Qualsiasi falsità è una maschera, e per quanto perfetta, si riesce sempre, con un po' di attenzione, a distinguerla dal viso. Parve dunque a D'Artagnan che Bonacieux portasse una maschera e anzi che questa fosse delle più antipatiche a vedersi. Di conseguenza, vinto dall'avversione per quell'uomo, stava per passargli davanti senza parlargli, quando Bonacieux lo apostrofò. «E così, giovanotto, a quanto pare di notte facciamo bagordi, le 7 del mattino, per bacco. Mi sembra che voi capovolgiate le comuni abitudini e rientrate all'ora in cui gli altri escono. Nessuno Vi farò lo stesso rimprovero, padron Bonacieux, rispose il giovanotto. Siete il modello delle persone per bene. È vero che quando si possiede una moglie giovane e graziosa, non si ha bisogno di correre dietro alla felicità. È la felicità che viene a trovarvi, vero? Bonacieux diventò pallido come un morto e fece un sorriso che era una smorfia. Disse, siete un burlone. Ma diavolo, che razza di scorribande avete fatto stanotte, mio giovine signore? Sembra che non fossero tanto comode le scorciatoie. D'Artagnan chinò gli occhi sui propri stivali infangati, ma con quel gesto il suo sguardo cadde contemporaneamente sulle scarpe e sulle calze del merciaio. Si sarebbe detto che fossero stati immersi nello stesso pantano. Gli uni e le altre erano imbrattati di identiche chiazze. Allora un'idea improvvisa balenò nel cervello di D'Artagnan. Quell'ometto tozzo, piccolo, brizzolato, quella specie di servitore vestito di scuro, trattato senza riguardo dagli spadaccini della scorta, era Bonacieux in persona. Il marito aveva presieduto al rapimento della moglie. D'Artagnan fu assalito da una voglia pazza di saltare al collo del merciaio e di strangolarlo. Ma abbiamo già detto che era un ragazzo assai prudente e si trattenne. D'Artagnan trovò Planchet fuori di sé. «Ah, signore!» esclamò questi non appena ebbe scorto il padrone. «Eccone un'altra! E non vedevo l'ora che rientrasse!» «Che c'è mai?» chiese D'Artagnan. «Oh, scommetto 100 contro 1, signore, 1000 contro 1, che non indovinate la visita che ho ricevuto per voi in vostra assenza!» «E quando?» «Mezz'ora fa!» «Mentre eravate da Monsieur de Treville. E chi è venuto? Su, parla. Monsieur de Cavois. Monsieur de Cavois, il capitano delle guardie di Sua Eminenza. Proprio lui veniva ad arrestarmi. L'ho sospettato, signore, nonostante la sua aria insinuante. Secondo te aveva l'aria insinuante? Come dire, era tutto miele, signore. Davvero? Veniva, diceva, da parte di Sua Eminenza, che vi vuole un gran bene, a pregarvi di seguirlo al Palais Royal. E tu? Gli hai risposto? Che era impossibile, visto che eravate fuori. E allora che ha detto? Di passare da lui senza farlo in giornata. Poi ha aggiunto sottovoce, di al tuo padrone che Sua Eminenza è molto ben disposta verso di lui e che forse la sua fortuna dipende da questo colloquio. Sorrise D'Artagnan dicendo «La trappola è piuttosto maldestra per essere del cardinale. Difatti, io l'ho vista la trappola e ho risposto che al vostro ritorno vi sarebbe dispiaciuto moltissimo. Dove è andato?» ha chiesto Monsieur de Cavois. «A Troyes, in Champagne», ho risposto io. «E quando è partito? Ieri sera». «Planchet, amico mio», interruppe D'Artagnan. «Sei davvero un uomo prezioso. Capite, signore, ho pensato che ci sarebbe stato sempre tempo, se desiderate vedere Monsieur de Cavois, di smentirmi dicendo che non eravate partito. In tal caso, il bugiardo sarei stato io, e siccome non sono un gentiluomo, io posso mentire». «Rassicurati, Planchet. Conserverai la tua reputazione di uomo veritiero. Tra un quarto d'ora partiamo». D'Artagnan scese per primo, come stabilito. Poi, per non avere nulla da rimproverarsi, si diresse un'ultima volta verso l'abitazione dei tre amici. Da parte loro nessuna notizia, solo una lettera profumatissima con una scrittura fine ed elegante era giunta per Aramis. D'Artagnan si incaricò di ricapitarla. 10 minuti dopo, Planchet lo raggiungeva nelle scuderie del Palazzo delle Guardie Per evitare perdite di tempo, D'Artagnan si era già sellato il cavallo. «Sta bene», disse a Planchet, quando questi ebbe aggiunto all'equipaggiamento la sacca da viaggio. «Adesso sella gli altri tre cavalli e partiamo. Credete che con due cavalli per uno andremo più svelti?» chiese Planchet con il suo fare malizioso. «No, spiritosone», rispose D'Artagnan, «ma coi quattro cavalli potremo ricondurre i nostri tre amici, qualora li ritroviamo vivi. Il che sarebbe un vero miracolo», rispose Planchet. «Ma insomma, non si deve disperare della misericordia di Dio». «Amen», fece D'Artagnan montando a cavallo, ed entrambi uscirono dal palazzo delle guardie. Paolo Bonacelli ha letto I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, riduzione di Lorenzo Pavolini, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi, il terzo anello, @rai.it.